alzano, ma non mi serve più, risveglio e credo. Sento le parole degli ascetti che rispondono, ma non mi voglio più deo stare allora. Sento ritornare la voglia di rinascere, ma non importa il come o dove, fallite. Se saprò affrontare l'aria che mi soffoca, potrò dire anch'io di camminare. Voglio stare fede, vorrei muovermi, ma su strade illuminate da luci, ma senza ombre stabili. Non voglio più annegare nell'aria e nelle parole inutili. Stavolta devo ammetterlo, ne voglio ancora e non ne posso più. L'atmosfera nella luce che mi accecherà, non se con gli occhi parli allora taci e senti nel calore delle frasi che non mi dirai. Ho la speranza di cambiare il tempo e sappi che non ti vedranno solamente come sei, no, ma confusa e senza luce apparirai. E se saprai affrontare l'aria che ti soffoca, potrai dirmi che sai camminare. Voglio stare fede, vorrei muovermi, ma su strade illuminate da luci, ma senza ombre stabili. Non voglio più annegare nell'aria delle parole inutili. Stavolta devo metterlo, ne voglio ancora e non ne posso più. Stare fede, vorrei muovermi, ma su strade illuminate da luci, ma senza ombre stabili. Non voglio più annegare.